Salvadanaio. Buongiorno, bentrovati a Salvadanaio da Valentina Furlanetto. Oggi con voi per parlare di RC Auto, come avete sentito poco fa durante il GR, perché c'è un primato purtroppo negativo che riguarda il nostro paese e a cui dedichiamo la puntata di oggi. Una tendenza che si conferma anno dopo anno, che sembra impossibile invertire. Parliamo delle tariffe dell'assicurazione auto, che in Italia si confermano le più alte d'Europa, sono oggetto di un rincaro costante, vertiginoso. L'allarme su questo continuo aumento viene condiviso da tutte le categorie coinvolte, non solo dai consumatori. Ognuno pone l'accento su differenti cause e criticità e individua differenti soluzioni al problema, ma come in un circolo vizioso fino ad ora non ci sono ancora riusciti, non siamo ancora riusciti a segnare una battuta dal resto di questi costanti rincari. In particolare, riportare il tema all'ordine del giorno è stata l'audizione al Senato del presidente dell'Antitrust Antonio Catricalà, dal quale è arrivata l'ennesima denuncia del continuo rincaro. Ogni analista poi individua cause differenti e differenti soluzioni, non mancano le complicazioni che vanno sempre a pesare sul consumatore, ultima in ordine di tempo la tendenza delle compagnie a disdire polizze di clienti anche fedelissimi, pensate, negli anni. Questa mattina ne parliamo tornando ad analizzare la situazione, a chiederci come il consumatore si possa tutelare, quando possibile come cercare di risparmiare. Avete subito degli aumenti, volete segnalarcelo, avete subito una disdetta nonostante non abbiate fatto degli incidenti, volete parlarne con noi, potete farlo all'800240024 oppure scrivendoci via SMS al 349-238-6666. Per parlarne abbiamo con noi Emanuele Anzaghi, amministratore delegato di cercassicurazioni.it. Buongiorno. Buongiorno. Abbiamo in collegamento telefonico Fabrizio Premuti, segretario nazionale di Adiconsum, referente per le problematiche legate al settore assicurativo. Buongiorno anche lei. Buongiorno a voi. Ecco, Maurizio Caprino, il collega del Sole 24 Ore, buongiorno. Eccomi, salve a tutti. Allora, tutti voi siete i benvenuti per aiutare noi e gli ascoltatori ovviamente a districarci nella selva dell'RC Auto e lo faremo tra poco. Prima però diamo uno sguardo, come abbiamo fatto anche nel GR, a ciò che sta accadendo sui mercati finanziari. Come sapete, sotto l'occhio del ciclone in questi giorni per i cali, anche oggi non va molto bene in borsa, in particolare alcune notizie stanno deprimendo i listini. La Francia è a rischio di perdere la tripla A, Moody's ha messo sotto osservazione il rating sul paese e quindi è in calo l'indice francese di Parigi a -1,7%. Anche in Germania il clima non è dei migliori, dopo che è stato diffuso l'indice ZEO che misura la fiducia degli investitori in Germania, anche questo in calo e ai minimi da quasi 3 anni. Francoforte cede lo 0,44%, Londra in calo dell'1,05%, per oggi la migliore, ma si fa per dire, è Milano con il FTSE MIB che cede lo 0,04%, intorno alla parità anche il FTSE Italian Share -0,10%. In particolare a Milano vanno abbastanza bene i bancari, Unicredit +1,97%, la Popolare di Milano +1,65%. A questo proposito registriamo il passo indietro di Giorgio Benvenuto nella partita per il rinnovo dei vertici della banca, e poi UbiBanca +1,45%, e ancora il Banco Popolare +1,1%. La migliore però del paniere principale è Pirelli +3,14%. Per quanto riguarda i cali, Tod's è la peggiore in questo istante, -2,32%, seguita da Parmalat con un calo dell'1,8% e da Enel -1,79%. Sempre male di Assori, -0,79%, anche se è risalita dal calo pesante della mattinata. Il titolo, dopo lo scivolone del 10% di ieri, continua ad accusare un calo. Piazza Affari non ha mandato giù la revisione al ribasso delle stime per fine anno. Per quanto riguarda gli altri titoli, sempre sotto osservazione Fiat, che ora sale dell'1,11%, ma che era partita in netto ribasso a Piazza Affari nel giorno della diffusione dei dati europei sulle immatricolazioni, per poi riprendersi appunto nel corso della mattinata. mattinata. Nel mese di settembre le immatricolazioni sono aumentate in Europa dell'1,1% annuo, invece la casa torinese ha avuto un calo del 7,8%. La quota di mercato è scesa così dal 7,1 al 6,5%. E questo era quello, è quello che sta accadendo in borsa. Ma invece torniamo a noi, parliamo quindi di RC Auto con il contributo della redazione che ci spiega un po' tutto in questa scheda. I prezzi dell'RC Auto sono un'anomalia tutta italiana, chiaro sintomo del malfunzionamento di un intero sistema. Il rincaro della polizza è inarrestabile e sembra essere inutile il rincorrersi degli appelli di tutti gli attori in gioco. L'autorità di vigilanza ISVAP, i consumatori, l'associazione degli agenti e quella delle compagnie, ognuna con un'analisi diversa e col dito puntato su altrettante cause. La scarsa concorrenza, l'abbandono del Sud Italia da parte delle compagnie, le troppe frodi assicurative. La denuncia più recente è quella del presidente dell'antitrust Antonio Catricalà, tornato a richiedere l'attenzione sul tema in un'audizione alla Commissione Industria del Senato. Numeri alla mano, Catricalà ha puntato il dito per l'ennesima volta sugli aumenti spropositati delle tariffe, che tra il 2009 e il 2010 hanno toccato il 25% per le auto e il 35% per le moto, dato che supera addirittura le previsioni e si fa ancora più impressionante prendendo in considerazione l'intero periodo 2001-2011. In 10 anni il prezzo delle polizze assicurative RC Auto è aumentato del 98%, una tendenza che non può essere giustificata dal pur considerevole aumento dei sinistri negli ultimi 2 anni, pari al 27%. A farne le spese sono sempre i consumatori, che oltre a vedergli evitare il premio, ultimamente stanno anche incappando nello strano fenomeno, sempre più diffuso anche tra i clienti fedeli e con pochi incidenti alle spalle, della disdetta delle polizze da parte delle stesse compagnie. Allora, vedete, sul tavolo i temi sono molti. Iniziamo a parlarne subito anche con i vostri interventi. 800 24 00 24 per chiamarci in redazione e parlare con i nostri esperti, oppure via SMS se avete una domanda precisa che potete fare in poche battute al 349 238 6666. Maurizio Caprino, collega del Sole 24 Ore, ti sei occupato spesso di questi temi. Ti ho salutato per ultimo, quindi ci tengo a iniziare con te. Abbiamo sentito dalla scheda questi dati, l'RC Auto cresciuta del 25% fra il 2009 e il 2010, il prezzo delle polizze è aumentato in 10 anni del 98% e ultimamente anche questa tendenza abbastanza singolare che ha fatto abbastanza scalpore, la beffa della compagnia che mette alla porta gli assicurati più virtuosi, è così? Sì, diciamo, per la verità questa non è una tendenza recente, diciamo le prime tracce si sono viste a Napoli oltre una decina d'anni fa. Ora ovviamente che il fronte è particolarmente caldo se ne parla di più, però il fenomeno è vecchio e deriva dal fatto che comunque per le compagnie è più comodo disfarsi di una quota di assicurati soprattutto in determinate zone e disfarsi con i cosiddetti tagli lineari, si direbbe in altri ambienti, piuttosto che fare una bonifica, ma d'altra parte questo è un settore che così com'è è assolutamente imbonificabile, perché fra truffe, fra contenziosi esagerati, perché noi siamo un paese di avvocati e altre cose tipo criteri di risarcimento piuttosto larghi eccetera, oggettivamente non si può far carico a una sola parte di risolvere i problemi del sistema, quindi occorre che anche la mano pubblica si metta una mano sulla coscienza e anche tutti noi ovviamente. Emanuele Anzaghi, amministratore delegato di Cerca Assicurazioni, voi avete lanciato un polizzometro su internet, di cosa si tratta? Sì, noi rileviamo mensilmente l'andamento dei preventivi che vengono effettuati sul nostro sito, sono circa 300.000 al mese, e sulla base di questo redigiamo alcune statistiche sull'andamento dei premi, del risparmio, quindi tutte le caratteristiche comparative dei diversi prodotti che vengono offerti alla clientela. Ecco, per fare una comparazione fra zone, sono dati un po' forse scontati, ma mi pare di capire che in Campania ci siano polizze molto più alte, più infortuni. Allora, sicuramente i prezzi sono estremamente diversi in aree diverse del territorio, dove il caso sicuramente più eclatante è quello della Campania, così come altre regioni del sud Italia, non tutte per fortuna. E questo fenomeno è in buona parte riconducibile all'elevato costo dei sinistri che si hanno in quelle aree. Fabrizio Premuti, abbiamo detto, segretario nazionale di Adiconsub e anche referente per queste problematiche. Dicevamo, nel nostro paese si spende per l'RC auto mediamente 407 euro, in Francia ne bastano 172, in Germania 222, però i costi sono anche anomali, la frequenza dei sinistri nel nostro paese è il doppio di quella francese. Allora, intanto una precisazione, non sono più segretario nazionale di Adiconsum, rimango comunque io responsabile del settore assicurativo e per questo oggi intervengo. In questa allora correggeremo. Sì. Allora, sicuramente c'è un problema dell'anomalia italiana che è data dalle frodi e dalle speculazioni, questa è una evidenza che è sotto gli occhi di tutti, è qualcosa che conosciamo molto bene ma su cui, e permettetemi di dire, le compagnie si sono sempre impegnate molto poco, perché non è che oggi vediamo che le frodi sono aumentate a livelli impressionanti, le frodi sono aumentate nel tempo. Dice bene Maurizio, 10 anni fa le prime avvisaglie su territori come Napoli, subito dopo la Puglia, subito dopo la Calabria e così via, perché poi il Basso Lazio non è che sia da meno, per dirla tutta, ma che cosa hanno fatto le compagnie in tutto questo tempo per presidiare il territorio se non che chiudere i loro uffici su quei territori, quindi lasciare alla criminalità la possibilità di giocare ancora meglio, a discapito ovviamente dei cittadini buoni, a discapito di quei cittadini che sono degli assicurati responsabili e rispettosi delle regole. E qui c'è un primo punto su cui io chiaramente non posso non chiamare in causa le compagnie di assicurazione. Poi c'è l'altro problema che invece è del tutto legale, giuridico, che è dato dal fatto dei risarcimenti che in Italia sicuramente in molti casi sono valutati meglio che altrove. E di questo, scusi se la devo interrompere perché c'è il meteo e la pubblicità. Bentornati a Salvadanaio da Valentina Furlanetto, oggi parliamo di RC Auto con le peculiarità tutte italiane sia sul fronte dei costi che anche sul fronte degli incidenti in fondo che si fanno in Italia rispetto agli altri paesi in Europa. Ho tolto la parola prima a Fabrizio Premuti di Adiconsum, referente per queste problematiche, e mi scuso per avergliela tolta, ma il tema è caldo e si vede anche dagli ascoltatori che sono già in attesa sulla linea telefonica ed è importante spiegarlo bene, prego. Sì, assolutamente, nessun problema, e siamo tra l'altro in diretta, mi sembra abbastanza normale. Stavo dicendo che c'è anche un problema legato ovviamente ai sinistri, il numero dei sinistri in Italia è estremamente elevato e dal numero dei sinistri derivano i risarcimenti. Sui risarcimenti noi abbiamo un sistema che soprattutto ormai nelle grandi invalidità permanenti, cioè quelle che vanno dal 10% al 100% di invalidità, si assiste al fenomeno della tabella del tribunale di competenza. Queste tabelle ovviamente viaggiano libere con valori che sono assolutamente difformi l'uno dall'altro e tendenzialmente vanno verso l'alto. Assolutamente nulla in contrario che chi si è fatto male venga risarcito e assolutamente deve essere risarcito nella maniera giusta ed equa. Però se noi tendiamo ad innalzare anche oltre l'equità, probabilmente quello che spendiamo da qualche altra parte si deve andare a recuperare e viene scaricato ovviamente nelle tariffe. Ma voglio tornare sul problema del Sud, perché sul problema del Sud probabilmente noi abbiamo veramente il problema RC Auto oggi, perché l'ho visto proprio ieri, un trasportatore mi ha fatto vedere un preventivo in cui gli viene chiesto per assicurare il proprio mezzo 12.700 euro. Addirittura. Adesso, addirittura, ma c'è un preventivo scritto di una compagnia, adesso è chiaro che quel trasportatore non potrà mai assicurare il suo mezzo per quell'importo e ha dichiarato molto tranquillamente se ne va in giro senza assicurazione. Adesso quel trasportatore, la situazione di quel trasportatore è la stessa situazione che stanno vivendo migliaia di cittadini del Sud, e questi vanno migliaia in giro ormai senza assicurazione, non pensando che oltre a mettere in forte pericolo il proprio patrimonio personale, mettono in pericolo l'intero sistema, ma questo è un sistema che non è più sostenibile, e se noi non torniamo a rendere sostenibile il sistema dell'RC auto, probabilmente ci troveremo molto presto a dover contare i milioni di cittadini che saranno senza assicurazione. Poi io credo che questo non è, sì, non è da paese civile, e su questo io credo che si debba intervenire immediatamente. Sì, poi facciamo appunto anche qualche proposta per avere dei risultati, per cercare di cambiare le cose, ma abbiamo in collegamento proprio degli ascoltatori, tra l'altro del Sud Italia. Rosario da Salerno, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Allora, io sono un assicurato ormai da quasi 30 anni, in tutta la mia vita ho causato solo due sinistri a livello di tamponamenti irrisori. Questo è il discorso che si parla del sud, sempre incidenti. Ma la mia domanda non è questa. La mia domanda è, sono un assicurato e avevo intenzione di cambiare la compagnia assicurativa. Vedendo su internet si parla di sconti che fanno paura. Ho fatto una decina di preventivi e praticamente mi si raddoppia, in qualche caso si triplica il premio assicurativo. Ho provato a farle anche tramite, cioè recandomi proprio alle agenzie, e il discorso non cambia. La scusa che è stata trovata, non so se è giusta, è che io sto in prima categoria, praticamente viene riconosciuta la prima categoria, però non viene riconosciuta poi la sottocategoria della prima categoria. Mm. Cioè praticamente io sono un assicurato che paga 700 euro all'anno. E quanto le viene chiesto? Mi viene chiesto da 1.400 a 2.100 euro. Grazie Rosario, grazie. Maurizio Caprino. Purtroppo è normale, nel senso che le sottocategorie sono soltanto una convenzione tra virgolette commerciale, quindi una condizione che viene praticata dalla singola compagnia, ognuna le sue, ed è fatta in modo tale da premiare, diciamo, gli assicurati più fedeli che hanno pochi sinistri. Cioè se uno è già in classe 1, ovviamente dopo un po' di anni non può più progredire, quindi gli viene riconosciuto un benché piccolo progresso supplementare. Questo progresso ovviamente non viene riconosciuto nel cambio di compagnia, perché i sistemi, diciamo, non si parlano, ed è questo però diciamo abbastanza normale. Il problema vero però è che in tutto questo sistema anche chi è in prima classe, e sono tra l'altro la stragrande maggioranza degli italiani, questo non si sa in giro, ma è così, diciamo, anche chi è in prima classe paga cifre esorbitanti, questo proprio perché alla fine i costi del sistema sono assolutamente elevati, e quindi se si favorisse chi sta in prima classe, che è un'enorme maggioranza, finirebbe che chi è piazzato peggio dovrebbe pagare tutti 10-20 mila euro all'anno. Questo ovviamente non è possibile, quindi la strada maestra è nel contenimento dei costi, poco da fare. Emanuele Anzacchi, il nostro ascoltatore parlava di proposte su internet, voi fate un lavoro di confronto anche, permettete insomma agli utenti che vanno su cercassicurazioni.it di confrontare varie polizze, così? Assolutamente, sì, sia di compagnie dirette, cioè telefoniche, sia di compagnie tradizionali, e direi che questo caso è un caso che può avvenire, quello dell'ascoltatore, è un caso un po' limite, nel senso che noi mediamente misuriamo che per oltre il 90% dei consumatori riusciamo a trovare un prezzo migliore. Esistono dei casi di consumatori che sono già ben assicurati o, diciamo, meno peggio assicurati, questo è evidentemente uno di quei casi. In particolare mi sentirei di dire che evidentemente la compagnia, seppure il premio alto, lo sta in qualche modo premiando questo consumatore, lo vuole tenere, no? E quindi evidentemente, presumendo che la ricerca sia stata fatta in modo esaustivo, vuol dire che non si riescono a trovare alternative. Abbiamo un altro ascoltatore dalla Campania, Massimo da Napoli, buongiorno. Buongiorno, vorrei chiedere agli ospiti in studio come si può difendere il consumatore dalle disdette immotivate. Lei in questo caso ha avuto una disdetta immotivata? Sì, mia moglie, precisamente. Da quanti anche anni? Da quanti anni aveva la assicurazione? Da circa 4-5 anni, però non ha mai fatto incidenti. E le hanno chiesto, cioè le hanno imposto la disdetta? Sì, esatto, esattamente. Grazie. Fabrizio Premuti. Ma lì è molto semplice, la prima cosa da fare è denunciare, perché le disdette immotivate veramente non hanno ragione d'esistere. Questo ce lo dice l'antitrust nel momento stesso in cui ha sanzionato una importante compagnia italiana per 450.000 euro, e la sanzione è motivata proprio per questo particolare motivo che ci sta rappresentando l'ascoltatore. Tenete presente che la disdetta immotivata immediatamente dopo viene seguita da un'offerta di riassunzione, perché lo ricordiamo, è obbligatoria, non è che la compagnia possa fare a meno di assicurare, è obbligata ad assicurare così come il consumatore è obbligato ad assicurarsi, ma questa richiesta ovviamente arriva al doppio, al triplo del premio pagato precedentemente. Denunciare immediatamente all'antitrust, denunciare immediatamente all'ISVAP. Ricordo che anche su questa partita l'ISVAP si sta muovendo in maniera molto pesante, sono state aperte 14 istruttorie, 13 sono state portate a termine. A breve avremo sicuramente l'uscita delle sanzioni che l'ISVAP farà a questi gruppi assicurativi che hanno giocato sporco, e hanno giocato sporco in special modo al sud. Ecco, per completezza di informazione, visto che non abbiamo in presente in studio un rappresentante dell'ANIA, l'associazione che rappresenta il settore assicurativo, l'ANIA dice le disdette sono legali, tra l'altro chiedono che la disciplina delle microinvalidità diventi in linea con quella europea, una tabella per le invalidità gravi, una revisione del sistema bonus malus, perché dicono quella delle frodi è un caso tutto italiano, anche quella degli incidenti, dell'alto numero degli incidenti. Adesso sentiamo un altro ascoltatore che è in attesa, Marcello da Roma, buongiorno. Buongiorno. Qual è il suo problema? Io volevo riflettere un po' in generale sull'obbligo di assicurazione, nel senso, mi perdoni ma fa un ritorno fastidioso, nel senso che... Abbassi la radio se ha un ritorno fastidioso. No, non è la radio, è il cellulare. Nel senso che esistono vari comportamenti che possono causare decessi o danni gravi a cose, ad esempio potrei mettere una mia bicicletta sulla ferrovia e far deragliare un treno intero, però non c'è l'obbligo di assicurazione. Allora mi chiedo come mai per il settore automobilistico ci sia questo obbligo. Se obbligo deve essere, io ripeto sono contro, ma se obbligo deve essere, devono essere allora obbligate le assicurazioni a rispettare una tariffa massima, perché non è possibile questa differenza dal consumatore al fornitore del servizio. Grazie. Ecco, questo è un tema che ritorna anche via SMS, alcuni ascoltatori ce lo pongono, quello dell'obbligo o meno dell'abolizione, della prospettiva di abolire l'assicurazione, la necessità di assicurarsi. Maurizio Caprino. Questo è un tema piuttosto vecchio, su cui si dibatte da tanto tempo. Si prospetta anche per esempio un modello francese secondo cui c'è libertà su tutto il mercato e poi rigidità sui clienti peggiori, che dovrebbero essere assicurati da tutte le compagnie secondo una tariffa stabilita da un controllore pubblico. Ma al di là di questo, qualsiasi tipo di soluzione si adotti rischia di naufragare nei confronti di un sistema che non è più sostenibile a causa degli alti costi. Quindi prima dobbiamo bonificare questo e poi adesso. Chiedo scusa, qui ho un problema di muratori all'appartamento a fianco, quindi non c'è nessun problema, sentivamo benissimo. Grazie Maurizio. Come immaginavamo, il tema è molto caldo, arrivano telefonate, sms di casi. Io vi ricordo che se non siete sazi di quello che diciamo oggi a Salvadanaio, oggi pomeriggio inizia l'anno alle assicurazioni del Sole 24 Ore, oggi e domani, 13° appuntamento per questo forum che ha l'obiettivo di dibattere sulla situazione attuale, sulle prospettive di sviluppo dell'intero settore. Un ascoltatore che non si firma però via sms ci scrive: ha urtato lievemente un veicolo davanti a me, il conducente è andato via senza CID, l'indomani lamentava colpo di frusta, nonostante la mia diffida a non pagare, l'assicurazione ha pagato, per loro è più comodo, commenta, accordarsi che non andare in causa. Che fare? Fabrizio Premuti. Ma qui il problema del colpo di frusta ovviamente si presenta, lo diciamo per numeri, dalle 5 alle 600.000 volte l'anno. Purtroppo è un problema che fa parte della speculazione generale che c'è su questo settore, sulla RC Auto, ed è uno dei problemi maggiori su cui non si riesce a intervenire né da parte delle imprese né tantomeno da parte delle forze dell'ordine e dei medici in fase di accertamento. È chiaro che anche su questo problema, che è puramente medico, andrebbero fatti degli accertamenti molto più mirati, andando a verificare, e qui purtroppo le compagnie non lo fanno più, quello che è il nesso di causalità tra l'incidente che viene denunciato e quanto veramente è occorso. Ci vorrebbe nuovamente un ricorso a degli esperti, i periti assicurativi ovviamente, sto parlando di loro, che vadano ad indagare se effettivamente si è prodotto un urto che possa causare più o meno quel tipo di lesione al cittadino. È evidente che quando una persona è sicura, certa al 100% che tutto ciò non è accaduto, è l'impresa stessa, perché questo succede nella RC Auto, che si deve far parte dirigente ed eventualmente segnalare e perseguire quel cittadino che in questo momento, in quel momento sta tentando una speculazione. E su questo dobbiamo essere molto chiari: le speculazioni non le deve accettare nessuno, non le deve accettare il consumatore, non le debbono accettare le imprese, men che meno le deve accettare la giustizia, lo Stato, ma le imprese, torno a ripeterlo, non possono pensare che nel fare impresa lo Stato si sostituisca a loro. Quello che Melania prima ha in qualche maniera puntualizzato, voglio dire, siamo perfettamente in linea e d'accordo, abbiamo fatto insieme un documento in cui insieme abbiamo chiesto che ci sia la messa in sicurezza delle invalidità, che sia fatto un sistema unico di riconducibilità ai valori economici, che sia fatta un'agenzia antifrode che è veramente un'agenzia antifrode, perché ciò che hanno fatto è tutto meno che qualcosa che possa avere un effetto immediato sul contenimento delle frodi, che sia sviluppato in Italia il risarcimento in forma specifica per i danni materiali, per esempio, questo non l'abbiamo detto fino adesso, e su questo sto dicendo che invece che fare transazioni economiche e risarcire il danno con soldi, il danno si può tranquillamente risarcire riparando i veicoli. È ovvio che poi ci sono degli altri danni, quelli accessori, che vanno risarciti. Queste sono alcune proposte che in effetti volevo proprio invitarvi a fare in chiusura di trasmissione. Allora facciamolo subito. Emanuele Anzaghi di cercassicurazioni.it, anche lei aveva qualche proposta. Sì, io, evitando forse i grandi temi su cui lavorano tutti, che sono al di là della mia portata, però ritengo che ci siano alcune cose concrete che si possono fare subito. La prima: bisognerebbe abolire immediatamente il tacito rinnovo. Questa è stata una cosa che già l'ISVAP ha chiesto tempo fa e non si è tradotta in alcun indirizzo. Il tacito rinnovo è quella pratica per cui su molti dei contratti auto vigenti, in assenza di disdetta da parte del consumatore, il contratto si riattiva automaticamente. Questo frena la mobilità dei consumatori, che non si pongono il problema se non a fronte di un rialzo molto marcato. Riterrei anche molto utile l'introduzione di un prodotto con caratteristiche standardizzate, in modo che si favorisca la confrontabilità, cioè qualcuno dovrebbe definire quali sono le caratteristiche minime che deve avere un prodotto assicurativo RC Auto in termini di massimali, scoperti, franchigie, e far sì che tutte le compagnie avessero in catalogo questo prodotto, in modo appunto da favorirne la confrontabilità. L'ultimo punto che vorrei toccare, che è toccato anche dall'antitrust, è quello di supportare la distribuzione multimarca. L'Italia è un paese in cui l'RC è largamente distribuita da agenti monomandatari. Allora, da questo punto di vista, oltre che agire su dei vincoli, sui contratti stipulati dalle imprese con gli agenti, secondo me sarebbe opportuno prevedere delle agevolazioni per chi decide di distribuire prodotti di compagnie diverse, che deve affrontare sistemi informativi più complicati, perché ogni compagnia ne ha uno diverso, deve allargare la sua struttura organizzativa, quindi sarebbe opportuno per esempio prevedere una deducibilità fiscale di certi investimenti che si fanno per poter offrire più prodotti ai propri clienti. Abbiamo in collegamento ancora degli ascoltatori in attesa. Nino dalla provincia di Frosinone, buongiorno. Sì, buongiorno. Una mia esperienza personale di truffa alle assicurazioni. Circa un paio di anni fa ho ricevuto una notifica dalla mia compagnia di assicurazione che mi diceva che avevo fatto un incidente a Napoli. Io l'ho immediatamente contestata, perché non ero mai stato a Napoli in quel periodo, ma neanche prima, per iscritto. La compagnia ha provveduto, nonostante ciò, a pagare il sinistro, mi ha aumentata la classe. Io successivamente ho anche fatto denuncia alla Procura della Repubblica, che hanno fatto una ispezione presso la compagnia, ma è finito tutto lì, nel senso che io ho avuto raddoppiato il premio, ho cambiato compagnia assicurativa, ma è servita a poco perché la classe era quella. Ecco, presuppongo una certa, in qualche modo, una certa connivenza della compagnia assicurativa con il truffatore in questo grazie, modo. Grazie, grazie Nino. Maurizio Caprino, è la seconda testimonianza che parla appunto di un approccio delle compagnie propense a pagare piuttosto che andare fino in fondo delle questioni. Sì, ma ne ho ascoltate decine nella mia vita professionale, purtroppo, perché il problema è sempre il fatto che per una compagnia è più semplice pagare una controparte anche fraudolenta piuttosto che andare ad indagare sulla frode che ha compiuto questa controparte. Questo è il punto. Finché non si risolverà questo, continueremo ad andare avanti in questo modo. Comporta anche, diciamo, la risoluzione di questo problema comporta anche che la giustizia funzioni bene, perché io ho sentito anche decine di investigatori pronti, appunto, investigatori pubblici, cioè poliziotti, carabinieri, finanzieri, pronti a indagare su queste cose, ma mancano le denunce proprio perché le compagnie non hanno fiducia, in quanto se anche il poliziotto, il carabiniere, il finanziere fa il proprio mestiere, porta davanti al giudice le persone che hanno truffato, poi spesso questi sono dei, tra virgolette, processetti che vanno alla prescrizione. Sappiamo tutti quanto è al collasso il sistema della giustizia, e purtroppo questo è un prezzo che paghiamo tutti, ma non tutti, non solo le persone come l'ascoltatore che ci sono incappate direttamente, ma noi tutti, perché poi alla fine le compagnie hanno una grande arma, cioè scaricare tutti questi costi su noi tutti indistintamente. Questo va impedito, e quindi ritorno al fatto che lo Stato deve iniziare a funzionare meglio. Ecco, quindi un affresco oggi dell'RC Auto che ricorda un po' l'affresco dell'Italia in generale, giovani che pagano di più, un problema anche di giustizia, e quindi delle soluzioni che abbiamo tentato con i nostri ospiti di portare avanti, e chissà che nella prossima puntata con Deborah Rosciani possa magari vedersi l'alba di una di queste soluzioni. Io ringrazio in chiusura Emanuele Anzaghi, amministratore delegato di cercassicurazioni.it, Fabrizio Premuti di Adiconsum e Maurizio Caprino, il collega del Sole 24 Ore, per essere stati con noi. Ringrazio gli ascoltatori, Marco Lombardo in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Da Valentina Furlanetto è tutto. Salvananaio torna domani con Deborah Rosciani. Buongiorno.